consolat il mio popolo che a Babilonia è in esilio. Consolate, consolate, all'esilio chiamerò questo mio figlio. Come puoi cantare in terra straniera? Lontano da Sio. Pero